Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ragazzacci, buongiorno a tutti. Deve essere il pueblo y el pueblo decide. Cantemos bien fuerte que la gente lo pide. Oh, oh, oh, oh, cabrito a la selección. Entra verso Gilardino al volo! Gilardino! 160 gol in Serie A! Un super gol di Alberto Gilardino! Da la canzone para che tu c'è Sabela e la pace pone huevo prende cualquier favela. Eccoci al giorno dei chiamati, dei convocati e dei trombati. Adesso è tutto chiaro, la prima pagina del mondiale, del campionato del mondo è stata scritta, in ogni paese ci sono delle sorprese, compreso il nostro. Franco Piantanelli, autore di questo programma, Claudia Schiattone in regia, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattone in redazione, mi sbaglio tutti i giorni ma tanto l'avete capito, 800 24 00 24, per intervenire e per dire la vostra. Com'è giusto c'è Chiellini, perché ai mondiali non scherziamo, c'è Chiellini alla faccia del codice etico, dei dribbling di Prandelli e della demagogia imperante. Con Chiellini ci saranno Destro, De Rossi, Balotelli, che in passato hanno avuto i loro problemi con questo fantomatico libro della legge azzurra. Quanto a Cassano si vedrà, perché si dice sì, in ballottaggio con Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi che in linea teorica ha fatto fuori Gilardino, perché la convocazione nei 30 di Giuseppe Rossi ha chiuso appunto le porte all'attaccante del Genoa, che si è chiuso nel mutismo. Gli amici dicono ci è rimasto molto male, arrabbiato, duro, eccetera eccetera, però non dice niente Gilardino. Parlano invece gli altri, ma esclusi in tutto il mondo. Allora l'Argentina, state sentendo quest'altro ritornello coniato in Argentina per sponsorizzare Carlitos Tevez ai mondiali. Carlitos Tevez ai mondiali, i mondiali li guarderà in TV, o forse nemmeno, perché sua moglie ha detto bah, ma meglio così, basta, a casa e si riposa. Ce l'abbiamo la moglie di Tevez? Non ce l'abbiamo, vabbè, ve lo dico io quello che ha detto la moglie di Tevez al posto di del giocatore della Juventus, convocato tale Franco Di Santo. Alzi la mano oppure si faccia vivo chi ne conosceva l'esistenza. 800 24 00 24. Questo super giocatore ha fatto 4 gol nell'ultima stagione, gioca nel Werder Brema, 18 reti totali da 2008, cioè da quando è approdato su campi europei. Vabbè. Poi, sempre a proposito di trombati, beh, c'è Criscito. Allora, Criscito era titolare nell'ultima uscita azzurra amichevole al Vicente Calderon contro la Spagna. Criscito era titolare, Gilardino è subentrato, quindi c'erano tutte e due, stavolta non c'è né uno né l'altro. Ricompare invece Pasquale, che era stato ripescato da Prandelli, anzi pescato per la prima volta da Prandelli in autunno, settembre 2013, partita contro la Croazia, quindi non giocava in azzurro da 7 anni, ha giocato in ottobre contro l'Armenia, in novembre amichevole contro la Nigeria e adesso viene chiamato nei 30. Facile immaginare almeno un nome tra questi 30, almeno un nome di quelli esclusi per il mondiale sarà Pasquale. Non so Darmian, perché Darmian potrebbe essere una candidatura interessante, mentre Criscito no, Criscito a casa e ha parlato, almeno ha twittato, ha preso il computer e ha scritto: non nascondo il dispiacere, ci sono rimasto più di merda adesso che 2 anni fa all'Europeo. Grazie a tutti per il sostegno. Firmato Domenico Criscito. Oh, tra gli altri esclusi, tra gli altri trombati. Ah no, su Criscito ha scritto anche Antonini, Ha scritto anche Antonini, non la sua fidanzata ma lui. Tra l'altro era stata la fidanzata a twittare qualcosa di interessante. contro Allegri, se vi ricordate. Ebbene, Antonini ha scritto: tu non hai i requisiti per questa nazionale? Troppo eticamente corretto, troppe presenze, troppi gol, troppo forte, mi dispiace amico. Questo ha scritto appunto Luca Antonini al suo amico Gila. Non è finita qui con i tweet, perché c'è un trombato eccellente anche in Francia. Deschamps non convoca Nasri. Appena vinto il titolo in Inghilterra con il Manchester City, e in questo caso è la sua fidanzatina, che si chiama Anara Atanyes, non so se è la pronuncia corretta, che sinceramente non so di dove sia. Sono molto chiare invece le parole del tweet: fuck France and fuck Deschamps. Strada. ¿Te gustaría que jugara el Mundial? No. ¿No te gustaría? No. ¿Por qué? Porque creo que si él tiene que ir por lo que es él jugando, como jugador. ¿No? Y si ahora el técnico lo llamara, fue por la presión que tiene la gente. Y para mí él es el mejor, y para ir para comer banco, mejor que se quede en casa. Tutti convocati. Adesso è un obiettivo, il primo obiettivo già è stato raggiunto, quello dei 30. Adesso dobbiamo andare là, devo andare là e dimostrare al CT, che mi vedrà più giorni, di dimostrare di valere anche 23, quindi ce la metterò tutto. Questo era Ciro Immobile, presente ieri sera da Chiambretti. Allora, c'è chi conosce Di Santo, non male, l'ho visto giocare nel Wigan, in Inghilterra, ex Chelsea, scrive un altro ascoltatore, Tevez escluso non per motivi sportivi ma disciplinari, se Agüero e Messi non lo sopportano è giusto così, ma com'è giusto così? Ma mettiamo in discussione Agüero e Messi anche, eventualmente, no? Ovviamente non che Carlitos possa competere con Messi, il più forte giocatore del mondo, eccetera, ma certamente in una lista di convocati, boh, sorprende abbastanza, cioè si sapeva, però non è ineccepibile questa esclusione. Sì, Agassi non c'è, ragazzi, lo so, ieri ci ho telefonato probabilmente il nostro corrispondente da Bergamo, lo cambieremo corrispondente da Bergamo, cioè, ho visto Agassi, era lì, si stava confessando dal prete, era tutto contento, ha detto Prandelli mi chiama, ma l'ha convocato sì per la briscola chiamata che si giocava ieri sera ad Orzinuovi, e quindi questa era la gioia di Agassi per questo tipo di convocazione. Un altro escluso, ma questo si sapeva, però vale la pena ricordare il motivo. Allora, Josip Simunic, squalificato per 10 partite dalla FIFA, sanzione confermata dal TAS dopo un gesto neonazista, non figura fra i preconvocati di Kovac, CT della Croazia. È un giocatore importante per la Croazia, 105 presenze in nazionale. Kovac dice: beh, siamo anche buoni amici, non dobbiamo dimenticare quello che ha dato la nostra nazionale, però non lo posso chiamare. Quindi escluso anche Simunic, escluso anche Rajan Engolan, che ha subito twittato: vabbè, il mio mondiale sarà la prossima Champions League con la Roma, e per questo figuratevi si è già scatenato un putiferio sulla rete. Va detto che per quanto riguarda la nazionale italiana ci sono altre esclusioni più o meno illustri, magari non tanto sorprendenti, però delle quali vale la pena dare conto e delle quali vale la pena, che vale la pena sottolineare. Ad esempio, Giaccherini è uno che è sempre stato uno dei fedelissimi di Prandelli, tra l'altro giocatore che ha caratteristiche abbastanza sui generis, ha giocato nel Sunderland, quindi giocare all'estero, ma l'abbiamo detto molte volte, non finisce per non pagare, e Crisito nella la testimonianza, la prova provata. Sunderland, stagione non esaltante, 22 partite, 4 gol in Premier, era in bilico certamente Giaccherini, rimane escluso. Con lui Osvaldo, vabbè ragazzi, se stiamo a guardare quello che è stato fatto in campionato, vabbè che se hanno convocato questo Di Santo potevano convocare anche Osvaldo, perché non è che abbiano fatto poi diversamente, pessime stagioni per entrambi. Anche Osvaldo nella prima parte della stagione in Inghilterra e poi con la Juventus, certamente la convocazione non se l'è meritata. Di Diamanti si è detto, Diamanti, insomma, anche mio amico Pardo che arriverà impegnato alla preparazione della finale di Europa League questa sera, che commenterà per Mediaset questo imperdibile Benfica-Siviglia che io sinceramente non la guardo, non ce la faccio, non so voi, 800240024, ma mi deprimerebbe un pochino guardare questa partita. Comunque, Di Diamanti si è detto, probabilmente ha firmato la sua esclusione dal gruppo azzurro nel momento in cui ha inchiostrato il contratto che lo ha portato in Cina. È un peccato perché secondo me è un giocatore che per una competizione come il mondiale è molto utile, giocatore con caratteristiche molto particolari, è uno che è sempre stato parte di questo gruppo. E a me dispiace particolarmente, personalmente, mia idea, poi voi potete dire quello che volete, 800240024, a me dispiace l'esclusione di Diamanti, così come quella di Florenzi, che invece è uno che aveva pieno titolo per entrare quantomeno nella lista dei 30. Prandelli invece ha preferito di no. Fuori anche Astori, dentro Ranocchia, poi vedremo i tagli. A proposito, quali saranno secondo voi? Io un'idea ce l'ho, un'idea me la sono fatta, cioè, credo che, vabbè, al di là della storia dei portieri che conosciamo, i convocati sono 31, ma in Brasile i tre portieri saranno Buffon, Perin e Sirigu. Poi chi resta fuori? Beh, è vero che Pasquale è l'unico mancino pure, eccetera, però ripescato dall'ultimo momento, secondo me ai mondiali non ci va. Ho dei dubbi che ci vada anche Cristian Maggio, che ha avuto problemi fisici come sappiamo, che ha fatto una stagione alla fine non brillantissima, quindi è probabile che resti che finisca per rimanere a casa. Io Aquilani ai mondiali sinceramente non ce lo vedo, anche se è stato chiamato nei 30, anche perché insomma è sempre stato molto ai margini del gruppo di questa nazionale di Prandelli. Andreva ci va, De Rossi ci va, Marchisio ci va, Montolivo ci va, Tiago Motta pure, Parolo anche, Pirlo pure, Romulo andrà, resta Verratti. E Verratti, secondo me, ai mondiali non ci va. Attaccanti, Balotelli sì, Cerci sì, Immobile sì, e poi vediamo. Insigne secondo me no, e restano Destro, Giuseppe Rossi e Cassano per due magliette, per due posti, per due biglietti aerei. Matteo da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno gente. No, le volevo dire che io sono abbastanza d'accordo con le convocazioni di Prandelli. L'unico dubbio, secondo me, lui 23 li ha già in testa, se lo tiene con Pepito Rossi, che valuterà il suo stato fisico di forma, gli altri li ha già in mente. E comunque non spostano gli equilibri di una nazionale la non convocazione di Criscito al posto di Pasquale, non cambia di una virgola, anche se io Criscito l'avrei chiamato perché poteva ricoprire i due ruoli. Come Diamanti, secondo me non ha disimparato a giocare a calcio in Cina in questi 4 mesi, si poteva portare come un eventuale matta da buttare dentro a gare in corso. Ma anche, anche perché onestamente possiamo discutere di tutte queste convocazioni, lei in linea di massima ha ragione, io condivido, cioè non ci sono cose che spostano, cose clamorose, eccetera. Sì. Anche se insomma su Gilardino avremmo scommesso tutti. Poi è chiaro che con queste convocazioni tramontano le candidature della terza età, da Totti a Di Natale a Toni, ma su questi non c'era da farsi grandi illusioni, anzi loro non avrebbero dovuto farsi, non si sono fatti credo grandissime illusioni. Però Gilardino è sempre stato uno dei più certi, no? in attacco, quindi questa esclusione un po' sorprende. Devo dire però, sono d'accordo con lei, che l'epurazione di Diamanti è abbastanza particolare. Perché? Perché è un giocatore comunque che ha delle caratteristiche che molti altri non hanno. A metà tra il centrocampista e il trequartista, è uno che ha fantasia, è uno che può accendere la luce, la miccia, come abbiamo visto d'altra parte agli ultimi europei, anche a giochi in corso, entrando nella ripresa, può essere utilizzato come giocatore tattico, quindi è un giocatore che secondo me era molto utile e molto funzionale a questa nazionale. mi sorprende il fatto che sia stato escluso. Prandelli lo conosce bene, l'ha convocato tantissime volte, come detto è uno che faceva parte del gruppo storico di questa nazionale, e mi sorprende il fatto che, insomma, se è così, che la mancata convocazione sia esclusivamente da imputare al suo passaggio in Cina in inverno. Grazie Matteo. Tommaso da Palermo, ricordo che anche oggi ovviamente al migliore in campo la maglietta di tutti i convocati. Tommaso, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Grazie. Dall'alto della sua competenza mi ha, diciamo così, già tolto mezzo diciamo così intervento. Io ho intervenuto proprio per il discorso di Antonio Girardino, che lei poco fa ha menzionato. Sono due campioni del mondo del 2006, e quello sono passati 8 anni da quel mondiale. Però se due giocatori a distanza di 8 anni segnano tutti quei gol che hanno fatto quest'anno in campionato italiano, sì, io credo che, essendo un mondiale, una manifestazione che avviene ogni 4 anni, non si può rinunciare a due giocatori del genere per giocatori che a livello di esperienza internazionale hanno veramente poca. Io ho visto che la Spagna ha rinunciato a Caleón, ma a fior fior di attaccanti. L'Argentina ha rinunciato a Tevez, ma a fior fior di attaccanti. Sì, però sì. Allora Tommaso, sì, è vero, hanno sì, fior fior di attaccanti, questo è vero, però quando escludi Tevez e chiami sto Di Franco qui, insomma, io un giocatore come Tevez, anche se ne ho tanti altri, me lo porto pure, perché è uno che, insomma, vale su larga scala il discorso fatto per Diamanti, è uno che ha i colpi, è uno che in una competizione breve come un mondiale può risolverti la partita da solo, e allora vale anche per Tevez, no, caro Tommaso, il discorso che stiamo ora facendo per Gilardino e per Toni, cioè reduci da giocatori di una certa età, di grande esperienza internazionale, reduci da una stagione in cui hanno giocato molto bene, hanno segnato molto, vabbè, questo vale anche per Tevez, o no? Sì, no? Però voglio dire, noi non abbiamo dei ricambi all'altezza, nel senso che abbiamo dei buoni attaccanti ma di scarsa esperienza internazionale, Higuaín, Immobile, Cerci. Io non avrei rinunciato a due giocatori come Girardino e Toni per la loro capacità, la loro esperienza. Questo penso che sia stato l'unico neo, a mio modo di vedere, di Prandelli. Speriamo di non doverlo rimpiangere. Questo, con il senno di poi vedremo. Però insomma, magari uno dei due, Girardino alla fine, per queste ragioni corrette che lei sottolinea, anche l'attitudine a giocare queste partite, l'esperienza internazionale, che sono cose che contano a livello di un mondiale, l'esclusione di Girardino può suonare abbastanza strana. Evidentemente Prandelli si fida molto dei ragazzi che questo campionato ha partorito, su tutti Immobile e Destro. Allora, ci fermiamo per la borsa, 800 24 00 24, vi aspetto dopo. Tutti convocati. Un giorno mi piacerebbe incontrarlo e fargli qualche domanda, posso? Mario? Chi sta parlando? Noi, secondo te, andiamo in campo per vincere o per perdere? Siccome quando vince il Milan è bravo Mario e quando perde il Milan è colpa di Mario, io l'accetto, non c'è problema, però le tue critiche non mi servono, me le faccio da solo, grazie. Secondo te, per vincere, dobbiamo fare gol o no? Guarda, ho cominciato questa stagione non molto bene, vengo qua per rifarmi e fare bene. E per fare gol dobbiamo tirare in porta o no? Mi sono sempre impegnato e sto migliorando tanto. Per tirare in porta dobbiamo stare lontano dalla porta, no, vicino alla porta. E allora perché tu giochi sempre anche nella nostra metà campo? Quando la palla non arriva in area devi andarla a prendere fuori dall'area. Speriamo che impari. Secondo me non capisci di calcio. Però è vero, è vero. Meraviglioso questo, bravo Roberto Scantuti, nostro regista. Ovviamente dialoghi immaginari. Invece messaggi reali, ognuno ha come giusto, come bello, in giorni così la sua ricetta. Addirittura Riccardo evoca il faraone visto a Bergamo, El Shaarawy. Riccardo ha giocato un tempo in 1 anno e mezzo, è rientrato, è vero, l'altro giorno a Bergamo è tornato, correva, era vivo, ha giocato un discreto secondo tempo, ma da lì e dopo 1 anno e mezzo che praticamente, o quasi, che sei ai margini dopo un sacco di tempo che non segni, eccetera, è stato insomma molto più in infermeria che in campo. Ti pare sufficiente un tempo di una partita di fine stagione a Bergamo per portare El Shaarawy ai mondiali o anche solo nella lista dei 30. C'è chi domanda: non basta Cassano ad accendere le partite? Riferito ovviamente al discorso Diamanti. Sì, poi bisogna vedere se Cassano ai mondiali ci va, perché a quanto si dice e si immagina, il ballottaggio sarà tra Giuseppe Rossi, ovviamente favorito se in condizioni fisiche accettabili. Se invece Prandelli riterrà Rossi non adeguato, non in condizioni sufficientemente affidabili per andare ad un mondiale, allora si porterà Cassano. Mi piace molto Saveglia. Parlo sta arrivando, è tra poco. Non condivido invece per niente il messaggio di Sante su Twitter, ma che vuol dire? Ma Astori prende pugni da destro e non viene convocato, mentre il pugile sì, come si dice, cornuto e mazziato. Che c'entra questo? Astori è stato escluso, ci si può domandare perché Ranocchi e non Astori. Mi sembrano considerazioni legittime ma abbastanza marginali, e destro giustamente convocato. Cioè, io l'avrei convocato, l'ho già detto, anche al giro prima, visto che pure lui è rientrante, pure lui ha bisogno di vivere questa nazionale. Io l'avrei convocato anche al giro prima. Pugno, non pugno, squalifica, non squalifica. Non continuo a non capire perché ci debba essere questo overrule di Prandelli rispetto al giudice sportivo. E spero che questo equivoco, perché tale è diventato del codice etico, venga accantonato quanto prima. Non c'è bisogno di un codice etico non scritto per escludere un giocatore che effettivamente lo meriti, così come non si deve diventare schiavi di questa legge non scritta. Sergio, provincia di Recco, buongiorno. Sì, guardi, buongiorno Genta. Buongiorno. Allora, io ero proprio volevo proprio intervenire sul fatto del codice etico. Sì. Perché secondo me Prandelli è un uomo scorretto, altamente scorretto. Uh-huh. Aveva già fatto una porcata agli europei quando ha portato Bonucci e non Criscito. Uh-huh. E adesso si è ripetuto, perché mi sembra di ricordare che De Rossi e Balotelli siano rimasti fuori un giro o due proprio perché erano, sì, squalificati. No, benissimo, benissimo. E invece adesso il signor Chiellini se lo porta. Vabbè, ma Sergio, ma fa bene. Mi perdoni. No, ma io la perdono, ma fa bene. Ma secondo lei avrebbe dovuto non portare ai mondiali Chiellini? Sì, perché allora valeva la stessa cosa per Balotelli o De Rossi o qualcun altro che adesso io non mi ricordo. Mm. Per il semplice motivo: o vale sempre e per tutti, indipendentemente dall'occasione, sì, o non vale mai. Questo è un discorso, cioè, che ci sta, guardi, Sergio. Allora, l'etica. Mi perdoni, così dialoghiamo. No? Sul codice etico ha toppato forse Prandelli, riferito a se stesso, perché lei ha ragione. Allora, o si applica a tutti o non si applica a nessuno. Però vale anche il discorso per cui Prandelli non è chiamato a selezionare una squadra per il torneo dell'oratorio. Si va ai mondiali, no? Ma quando giocavamo in qualificazione che è rimasto fuori Rossi o Balotelli, sì, non era la stessa cosa, mi perdono. Cioè, mi faccio capire, non era la stessa cosa. Eh beh, no, una qualificazione è una qualificazione. Ah, un mondiale è un mondiale. Ah, ecco. No, non è così. No, ma io contesto anche l'esclusione di. Contesto anche l'esclusione di destro, l'ho detto un secondo fa. Contesto anche l'esclusione di destro. Ma io, infatti, sono d'accordissimo con lei. Io la penso come lei, cioè il codice etico è una gran stupidata, però Prandelli che si erge a essere la correttezza in persona è un omuncolo, secondo me, si è dimostrato così. Guardi, poi per concludere, sì, se Chiellini fosse stato dell'Inter, del Milan, del Napoli, della Roma, sarebbe rimasto a casa, glielo dico io. Ma no, non ci credo. No, a questo punto della dietrologia non arrivo, cioè non posso spingermi indietro per un po', ma poi lì mi fermo, non ci credo. Io credo che nessuno dei titolari, nessuno dei senatori sarebbe rimasto a casa come conseguenza di un episodio come quello, ma ci mancherebbe altro. Ma cioè, se Prandelli non avesse convocato per i mondiali Chiellini per quella gomitata, per quella storia, Allora, sì, potremmo dire non sei capace di fare il tuo lavoro. Ripeto, non si va per partecipare, non siamo al parco giochi, non siamo al campetto, si va ai mondiali. Dunque, il problema è che Prandelli, su questa storia del codice etico, ha finito per incartarsi, perché questa è la verità. Nessuno avrebbe escluso un giocatore importante di una nazionale per una storia di campionato, per un contrasto di gioco, che poi anche questa cosa qui, se si gioca a pallone ci sono i contrasti, possono essere scorretti, molto scorretti, passibili di prova televisiva, di 3 giornate di squalifica, ma si tratta di contrasti di gioco. Ma sono stufo di questo overrule, l'ho detto prima, del commissario tecnico sul giudice sportivo, perché di gradi di giudizio ne abbiamo anche troppi. Giovanni Ancona, buongiorno. Sì, buongiorno gente, ho ascoltato la telefonata di Sergio e mi lascia molto male, perché vorrei due parole di sostegno a Prandelli, all'allenatore della nostra nazionale, che allena una nazionale la quale le squadre più importanti del campionato possiede l'80-90% di giocatori stranieri, e poi non il giudice sportivo, cos'è, qui non c'entra niente, la procura federale, il suo datore del lavoro gli fa questa chicca come ultimo regalo, il suo datore di lavoro, perché tra Destro e De Rossi è differente la cosa, perché innanzitutto Prandelli è stato ammonito che ha subito fallo da Totti, ha subito fallo, gli ha tolto la mano, lui gliel'ha rifiutata, e la procura federale doveva considerare anche questo gesto. Il discorso di Destro e di De Rossi, ma perché mi sto perdendo, sì. Mi ripeto un attimo la storia, sì. La procura federale doveva considerare che cosa? La procura federale è lei che ha posto l'immagine televisiva al giudice Tosello, sì. L'ha voluta porre, e siccome che a bocce ferme, perché il campionato già era finito, il discorso di Destro è completamente diverso, perché se l'arbitro interviene in un'azione, sì, ma l'arbitro, certo, interviene questo in un'azione, sì. Conta solamente se il giocatore prova a... Ma Giovanni, ma siamo tutti d'accordo, mi sembra, sul punto, cioè che i casi siano diversi, sì, che il caso di Destro abbia rappresentato un precedente anche molto insidioso, molto scivoloso, su questo punto pure siamo d'accordo, perché è stata la prima volta in cui è intervenuta la prova televisiva su un episodio che era stato in qualche maniera e comunque giudicato dall'arbitro. Questo di Chiellini è invece un esempio classico della prova televisiva, cioè al di là della procura federale il giudice sportivo ha richiesto la prova televisiva, quell'episodio non era stato visto in campo, e dunque Chiellini è stato squalificato. Proprio è un caso paradigmatico questo, ma non è tanto questo il punto, cioè il punto è: su un episodio di questo tipo togliamo uno dei nostri migliori difensori, togliamo dal mondiale, togliamo all'Italia, togliamo alla nazionale per questo, per una questione di mero principio. Lo so che siamo un paese di moralisti, ma per questa ragione allora andiamo al mondiale senza Chiellini? Cioè, secondo me quella sarebbe stata una cosa grave. Secondo me sì, quella sarebbe stata una cosa grave. Matteo da Verbania, buongiorno. Domodossola, provincia di Verbania. Domodossola. Domodossola, provincia di Verbania. Signor Gente, il signor Pardo si ricorda, sono quello dei signori, sì, che è in linea. Dei signori, Pardo arriva tra un minuto. Che lo saluto, se me lo saluta. Io volevo solo dire una cosa. Sposo alla grande quello che lei ha appena finito di dire, del discorso di Chiellini. Ci mettiamo poi a battagliare con le torri inglesi un difensore del nostro campionato, uno dei migliori difensori del nostro campionato, è giusto che vada. Poi a me hanno insegnato una cosa, che la prova televisiva viene data solo se l'arbitro non ha valutato. Io, guardando la partita, ho visto che l'arbitro ha valutato, e penso che il gesto di Chiellini non doveva essere da prova televisiva. Poi fa niente, lasciano il tempo che trovano, fa niente, la Juventus al campionato. E poi chi deve allenare la Juventus? Solo il signor Antonio Conte. La ringrazio, buona giornata. Lei dice, aspetti lì, fermo. Sì. Dov'è Matteo? Sì, dove va? A fretta? Sta andando. No, sono qua. Voglio che mi chiarisca l'ultima affermazione, che era decontestualizzata rispetto al resto. Solo il signor Antonio Conte vuole andare alla Juventus perché? Perché alla fine la società, sentendo anche le sirene, che secondo me sono tutte frottole dei giornali, che vedo Conte al Milan, Conte di qua, Conte di là, adesso mi sembra anche, non so se me lo può confermare, stasera dopo la finale Jesus diventa l'allenatore del Monaco, così ho letto. Sì, così pare. E infatti, signora Conte, anche può rimanere alla Juventus, lui ha alzato, io secondo me queste dichiarazioni, io lo ascolto sempre, queste dichiarazioni che ha fatto il signor Conte sono per dire mi devi comprare i giocatori, perché non si può vincere la Champions, però con qualche giocatore, qualche ritocco si può. E io Conte lo vedo solo alla Juventus, più un Mancini, un Allegri, uno Spalletti, non li vedo. Non li vede? Non ma li io sì, no. Neanche, ma aggiungerei al mazzo anche Montella, ma secondo me quello di Mancini potrebbe essere davvero il nome come profilo, il nome corretto per Juventus. Matteo, guardi, secondo me non sono solo chiacchiere in mezzo alle giornalistiche, effettivamente qualcosa da discutere. Un'ipotesi di divorzio tra la Juventus e Conte esiste, poi vediamo che succede. Intanto di sicuro ascoltiamo il traffico tra un attimo. C'è il traffico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Diversi messaggi tra l'altro, oltre alle vostre telefonate già numerosissime 800240024, messaggi 349-238-6666. C'è Antonio che scrive: il codice etico va benissimo perché serve a educare giocatori e ragazzi, però ha fatto bene a convocare Chiellini, Prandelli sottinteso naturalmente, perché per una gomitata è giusto perdere un turno di qualificazione, ma sarebbe assurdo perdere un mondiale. Secondo me per una gomitata mi è assurdo anche perdere un turno di qualificazione, perché ripeto, non giochiamo al parchetto ma tra giocatori professionisti. Non sto dicendo che il gesto di Chiellini, così come il gesto di Destro, siano stati belli, stati violenti, antisportivi e quello che volete. Il giudice sportivo vede, provvede, morta lì. Pierluigi Pardo, buongiorno. Infatti sono altamente deluso, signor Pardo. Ma non è vero. Attento, signor Pardo. Come va? Benissimo, tu? Molto bene. Stai preparando la finale di Europa League? Stai studiando il portoghese? No, sono in un posto bellissimo, Benaria, a pochi passi dallo stadio, devo dire, da Reggio, è una cosa meravigliosa. Se ne parla troppo poco, quindi pensavo, se sei d'accordo, di fare mezz'ora di puntata proprio su Benaria. La Reggia, piano prospetti, è incastonata in mezzo alle montagne, incastonata. Senso di pendica. Pierluigi. Senso di pendica. No, non ha detto dirigenza, ha detto solo Pierluigi. Pierluigi. Ascolta, è il giorno dei trombati. Sì. Gilardino, sì. Trombato. Sì. Tevez, vabbè, lo sapevamo, trombato. Criscito, trombato. Sono rimasto di merda più stavolta che non agli europei, ha twittato il signor Criscito. Poi, vabbè, nella mia personalissima classifica, il tweet più divertente rimane quello della signorina Nasri. Fuck France and fuck Deschamps. Mi sembra che più esplicito di così il suo pensiero non potesse essere, insomma. Allora, squadra italiana in campo stasera allo Juventus Stadium per l'assegnazione del primo trofeo europeo, l'Europa League. In campo il Benfica e... no, la Juventus non c'è. C'è Pardo che la racconta e c'è Riccardo Poma, regista italiano. Il più giovane regista, leggevo prima, ad essere chiamato a dirigere riprese di una Eurofinale. Ciao. Ciao Ricky. Allora, che fate voi due? Pardo, pensaci tu col tuo regista. Ma io faccio la telecronaca. Sì. Riccardo fa la regia, da quello che so, una roba pazzesca, 35 telecamere, due sul pubblico. Raccontaci un po' di cose. Ma guarda Pier, io sono già in campo in questo momento, sono sotto la Spider-Camp. Sono dentro due telecamere, certo, un bellissimo certo. Ambiente, veramente un respiro europeo, una partita europea eccezionale. In realtà una squadra in campo italiana c'è, la squadra che fa le riprese, gli operatori agli EWS, i registi, tutti quanti, quindi proprio italianità c'è. Sì, con tutto il bene che io voglio avrei preferito vedere la Juventus. Beh, insieme a voi, ma anche, sì, noi, anche noi, sì, anche noi, chiaro. Chiaro, pure noi, sì. Riccardo, quali saranno le cioè qual è il tuo modo di concepire questa regia? Ci saranno poi novità, cose particolari da seguire? Ma guarda, la particolarità principale è che abbiamo 32 telecamere, che è un numero veramente esagerato ed è assolutamente in proporzione all'evento calcistico di una finale europea. Ovvio che noi usiamo la tecnologia più moderna, più efficace per far vedere al meglio il gioco, lo rispettiamo sempre molto, la palla è sempre un movimento, il ball in play che è un feeling europeo, nella mia regia c'è sempre. E poi stasera abbiamo la grande occasione comunque di far sentire a casa qual è l'emozione di stare in uno stadio del genere, un evento del genere, giocatori, allenatori, ma e soprattutto il pubblico. Certamente. Sì, ma toglietemi una curiosità, tra regista e telecronista ci si parla, cioè ci sono delle esigenze particolari che Pardo ha e che Riccardo può mantenere? Com'è sta storia? Sono il più grande rompicoglioni, scusa, si può dire rompicoglioni della no, storia? No, rompicoglioni non si può dire. ci sono varie realtà, no? C'è il campionato, poi c'è chiaramente la finale europea. Riccardo fa la regia internazionale, no? In un evento come questo, parlo di stessa Riccardo che lo sa meglio di me, ma insomma c'è una regia internazionale che è quella che dà il prodotto a tutto il mondo, e poi c'è una regia italiana che sul prodotto internazionale ha la possibilità di integrare con delle immagini particolari, no? È così, Ricky? È così. Anche se non si dovrebbe dire, io comunque stasera gli parlo. Gli parli? Anche dall'internazionale, perché il feeling che ci deve essere tra sì. Le immagini e il commento ma, è importantissimo. Ma litigate mai? Sì, sempre. Ah. No, ma io sono mi rendo conto che sono abbastanza un rompipalle. Allora io ti dico su che cosa litigo delle volte. Litigo quando sul campionato c'è una cosa un po' diversa, nel senso che c'è una specie di running order, come dicono gli inglesi, cioè c'è una specie di mi vengono solo parole inglesi, di pattern, cioè ci sono delle regole che devono essere seguite in assoluto nelle immagini che devono essere mandate. Mi viene in mente insomma che se c'è un episodio da Moviola a me piace rivederlo spesso, e quindi qualche volta sto lì, uso il tasto intercom, me lo fate rivedere, magari non si può rivedere perché in quel momento l'immagine deve essere pulita, ecco, quindi questa è una delle principali cose. Poi devo esprimere la massima senso di dolore e chiedere scusa a tutti i tecnici audio che mi supportano in tutti gli stadi d'Italia, perché sono veramente una rottura di palle mostruosa. Ma è vero, Riccardo, è vero che parla così? Io ci credo, io lo so che è così. Non è proprio così. No, dai, puoi dirlo. Arrivo gli ultimi 10 minuti, si infila la cuffia e controlla che tutto vada bene. Sì. Con i suoi parametri che sono veramente di grande esigenza. Ma è giusto. Sì. Arriva 10 minuti prima, si mette la cuffia e rompe le palle. No, quindi bravo Pardo, bravo. Adesso parte tutto. Insomma, questa cosa, questo feeling che uno ha in cuffia con la propria voce e il rumore di fondo è fondamentale, nel senso che le equalizzazioni audio possono essere di tanti di e quindi insomma su quello sono veramente uno spaccapalle mostruoso. Vabbè, spaccapalle, sta lì che ci sentiamo dopo il giornale radio. Riccardo Poma, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro allo Juventus Stadium. Adesso lo spazio per le quote e poi i GR e poi di nuovo insieme. Quote e pronostici. Questa sera è tempo di finale di Europa League con la sfida dello Juventus Stadium di Torino tra il Siviglia e il Benfica. Calcio d'inizio alle ore 20:45 e da lì in avanti scopriremo se il Benfica di Juan Jesus riuscirà a sfatare la maledizione che nel lontano 1962 gli lanciò l'allora tecnico delle Aquile, Béla Goodman. Me ne vado e il Benfica non vincerà più un trofeo internazionale per i prossimi 100 anni. Da allora le Aquile di Lisbona disputarono 8 finali contro Santos, Milan, Inter, Manchester United, PSV, ancora Milan, Anderlecht e l'ultima contro il Chelsea nel 2013, proprio in Europa League, non vincendone neanche una. Ora, questa sera a Torino, il Benfica ha l'opportunità di sfatare la maledizione e vincere l'Europa League battendo il Siviglia. Allora guardiamo le quote SNAI proprio per la partita di questa sera. Benfica favorito con la quota del 2 a 2,25, l'X quotato 3,40, l'1, la vittoria del Siviglia, è quotata invece 3,10. È possibile scommettere anche sull'1x2 del primo tempo, allora l'1 pagato 3,70, l'X è quotato 2,10, il 2 invece è pagato 2,95. Queste le quote SNAI per la gara di stasera, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Pronto? Sì, salve, buonasera, un'informazione. Io chiamavo per l'annuncio dei biglietti della finale di Europa League. Sì, Niente, volevo sapere se per caso li vendi ancora, perché avevo visto l'annuncio. Sì, il prezzo per ogni biglietto è di 100 euro in curva sud. 100 euro? Sì. Ho capito, no, perché stavo cercando, diciamo, qualcosina in meno, avevo visto 50 euro che era il prezzo. No, è perché ci stanno molte richieste, dico onestamente. Ho capito. Ma tu come mai li vendi? Perché, cioè, non sono più interessata. Pensavo arrivasse la Juve. Ah, quindi li avevi acquistati perché, diciamo, eri convinto che la Juve andava in finale? Sì. E invece ti è rimasto nel... Due ore da onesti e due per il malaffare, due ore da galli e mille da zanzare, due ore per l'inferno. Pierluigi Pardo, sono malefici i ragazzi. Ma chi sono? No, i ragazzi che hanno pescato Piantanita, Scaltritti, De Luca, che hanno pescato questo sul web, questa... Tutta gente dinamitarda, gente. Provocatori, sobbillatori, Piantanita lo chiamano Zizzani a Roma, sì. Adesso sai cosa fa? Allora, visto che siamo fuori programma più totale, tra un po' lo chiamo e ognuno fa la sua nazionale, eh? Beh, mi piace. Intanto, oggi però è il giorno dei trombati, no? Siamo sì. Tutti d'accordo. Uno dei più grandi trombati a livello di nazionale nella storia del calcio italiano, sai chi è? Ce ne sono vari. Bonera, Beccanossi, sì. Ma c'è uno che è andato ai mondiali in Messico, cioè era sull'aereo, è sì. Andato, era titolarissimo. E a un certo punto, però, visto che Anastasia ha avuto un problema là dove non si può dire, convocano Prati e Boninsegna, uno dell'Inter e l'altro del Milan. Allora vanno, sì. Cioè, sovrannumero, no? Ce n'è uno in più. Allora devono mandare a casa uno dell'Inter e uno del Milan. E che si fa? Non puoi mica mandare a casa Lodetti. Come fa a mandare a casa Lodetti, che in altura, città del Messico, è quello che corre di più, che corre per tre. E invece un giorno lo chiamano. Giovanni Lodetti, buongiorno. Buongiorno a voi. Ti chiamano e ti dicono mi chiamano e mi dicono che devo andare a casa. E questo è tutto. Ma comunque è brutto, ma il fatto, potevano benissimo convocarne di più e non lasciare soltanto uno a casa tutto lì. Eh sì, e invece, ma poi la cosa, me l'hanno ricordata poco fa, la cosa migliore, insomma, è che poi ti ha chiamato la Federcalcio, è vero che ti hanno detto no dai, stai qui, ti vogliamo bene, ti mandiamo in vacanza ad Acapulco, facciamo venire la tua signora, è vero? È verissimo. E tu hai risposto? No. Ma non solo mi avevano fatto questa proposta di andare ad Acapulco, sì. Mi avevano anche promesso gli stessi soldi che non mi hanno dato. Bene. Dunque, cornuto e macchiato. E tu hai risposto? E io ho risposto di andare a fare in culo tutti. Capito Pardo? È così che si fa. Altro che Acapulco. Sì, ma tra l'altro credo che adesso comunque c'è una scelta con tanti giocatori, di conseguenza non rimane a casa solo uno, e spesso e volentieri fanno anche discutere, però questo fa parte del gioco. In quel caso lì avrebbero potuto fare come l'Inghilterra, come altri, convocarne 30 e poi dopo gli altri stanno a casa, insomma, ecco, ma non uno solo così. Certamente, che poi fu un'esclusione per motivi chiaramente politici, no? Perché avessi giocato già nella Sampdoria, saresti rimasto lì. Credo che tutto questo sia stato un po' organizzato dal Milan, perché a distanza di due mesi io poi venni ceduto alla Sampdoria, perché tornando a casa ero stato rimesso sul mercato, nel senso che se tu rimani il gioco del calciomercato e del trasferimento era chiuso. Dunque non potevano più fare nulla, invece così è successo, ma chissà, magari se non fosse successo il fatto di Anastasi gli avrebbero dato una martellata in testa a qualcun altro, chi lo sa. Sì, insomma, insomma sulla madre di tutte le porcate, caro Giovanni Rodetti. Senti, invece per quanto riguarda questi convocati, sì, tu come la vedi, tu come la leggi? Cioè, ti piacciono, non ti piacciono? Ma sì, credo che questo sia un po', diciamo così, il frutto del campionato. Poi qualcuno certamente ci rimane sempre male quando rimane a casa o che non viene convocato. Ecco, forse magari la cosa in cui dà un pochino più fastidio è che ci sia Giorgio Chiellini, che è un grandissimo giocatore, ma che forse in questo momento qua, dopo la squalifica, doveva essere lasciato a casa. Pardo? Il discorso l'abbiamo fatto lungamente ieri, insomma, diciamo che dal punto di vista tecnico non ci sono discussioni sulla convocazione di Chiellini, credo che siamo tutti d'accordo. Dal punto di vista comportamentale, alla luce di questa iniziativa del codice etico che si è inventata Prandelli, è chiaro che adesso è una scelta difficilmente difendibile, tanto più che c'era stata la dichiarazione di metà aprile in cui aveva detto da questo momento chi paga paga. Sì. Quindi io sono contento che Chiellini vada al mondiale, ecco. Io anche, perché ci serve. Ribadisco che Prandelli, che ha fatto tante cose sane e sagge fuori dal campo, sul codice etico secondo me ci ha capito poco. Sì. perché non c'era bisogno, dai. Non c'era bisogno, è diventata una complicazione, si è messo nelle condizioni di essere criticabile, attaccabile per questa ragione. Allora il codice etico dovremmo applicarlo pure a Prandelli, perché non è molto etico quello che ha fatto. Detto questo, Giovanni, io mi sarei arrabbiato se avesse lasciato a casa Chiellini insieme a Pardo per questo codice etico, perché... No, d'accordo, io sono assolutamente con voi. Però quando uno fa una scelta, quando uno decide, quando uno mette in atto un sistema, lo deve mantenere fino in fondo, se no lasci stare. Quindi nessuno ti ha chiesto di andare a criticare Tizio Caio e poi dopo cambi idea. Cesare è un bravissimo allenatore, è una grandissima persona, però credo che nella vita, insomma, qualcuno sbaglia, e quando sbaglia è giusto che venga criticato, poi dopo lui decide e fa quello che vuole. Sì, ascolta, Girardino, Crescito, Totti, Toni, Di Natale, Diamanti, tutti questi esclusi, c'è qualcosa che non ti torna in questo o no? Ma no, io credo che secondo il campionato forse Girardino poteva anche starci, però sappiamo benissimo che chi rimane ha qualcosa da dire sempre. Ritengo che sia tutto normale, insomma, ecco. E certo, magari non so, reclama Crescito, sento oggi sui giornali certe altre dichiarazioni, ma ripeto, credo che Prandelli abbia fatto una scelta oculata, una scelta giusta, secondo le sue naturalmente convinzioni. Ecco, poi dopo, ripeto, a tutti rimanere a casa dà fastidio e mettono in un discorso che... direttore tecnico della nazionale deve fare delle scelte, questo è sacrosanto, deve avere diritto di scegliere liberamente al di là dei codici etici, cioè si è infilato, eccetera eccetera. Pierluigi, attaccanti Balotelli, Cassano, Cerci, Destro, Immobile, Insigne, Rossi, due di questi stanno a casa. C'è chi dice, secondo me Insigne è il più serio candidato, poi c'è chi dice il ballottaggio sarà tra Giuseppe Rossi e Cassano. Pensi che andrà così? Io penso di no, io non sono sicuro innanzitutto che due andranno a casa, magari va a casa uno solo, potrebbe essere Insigne. Io penso che Rossi dipenderà molto da come sta, cioè io credo che ci sia in ballo un... Io penso che rimarranno tutti tranne Insigne e che su Rossi verrà fatta eventualmente una scelta di sacrificare un centrocampista se dovesse essere in condizioni tali da potersi conquistare la maglia titolare. Rossi e Cassano sono due, secondo me, che difficilmente... Rossi ha un, ci può essere ancora un po' di discussione sulla sua condizione fisica, no? Su come è tornato all'infortunio, quindi può essere utile qualche giorno di testa, perché Prandelli probabilmente vuole vedere con i suoi occhi in che condizioni è il ragazzo. Cassano mi sembra difficile, insomma, non mi sembra una cosa anche mediaticamente, insomma, o lo convochi... non lo so, non mi sbaglio, ma se lo porti, sì, se lo metti nei 30 poi lo porti, questa è la mia idea, poi non lo so, cioè, mi sembra che in via generale Prandelli abbia tenuto conto degli obiettivi del campionato. Giardino ha fatto una buona stagione, però destro e soprattutto Immobile in questo momento forse sembra avere qualcosa in più intermedio. E certamente il campionato ha detto che questi sono una scelta che ha privilegiato il rendimento e l'oggi piuttosto che il discorso dell'esperienza. Piuttosto che il pregresso, il fatto che comunque Giardino è sempre stato parte di questo gruppo. Un'ultima cosa per Giovanni Rodetti: pare che Verratti, che è nei 30, starà a casa. E Prandelli ha sempre spiegato, ma non so se lo porto perché è tutta la stagione che fa il vice Pirlo, a parte il fatto che ha fatto il vice Pirlo non nel Canicattì, ma nel Paris Saint Germain, giocando da titolare in Champions League, vincendo il campionato francese, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ti sembra una buona motivazione questa? No, assolutamente. Poi dopo lui, ripeto, fa le sue scelte e sono assolutamente scelte che secondo dichiarazioni sono condivise o meno, però credo che Verratti abbia fatto effettivamente un grande campionato. Teniamo conto che quest'anno Andrea, pur essendo un grandissimo calciatore, non mi sembra al massimo della condizione, dunque probabilmente magari toglie un sostituto molto importante alla nazionale per quanto riguarda Verratti. Però ripeto, in queste situazioni qua l'allenatore deve decidere a secondo di come vede lui la situazione. Può essere criticabile di tutto e di più, ma se la scelta è questa va accettata. Ritengo comunque che il giocatore abbia fatto veramente molto bene per confermare questa scelta di andare ai mondiali. Poi dopo, ripeto, se fossimo lì anche noi saremmo sotto le critiche, lascia a casa uno o l'altro, ma sicuro, ed è sicuro. Sempre comunque un fastidio, però il ragazzo ha giocato bene. Grazie Giovanni. Grazie a voi e buona giornata. E ogni a tutti. Volta che ti sento, complimenti per la tua risposta a Messico 70, perché ce ne fosse. Complimenti, tutte le volte che ti sento te lo dico. Ciao Giovanni, no, Rodetti. Io vi ringrazio, ma se avessero convocato tanti altri magari non li mandavo questo al paese, ma d'altronde va bene così, dai. Ciao Giovanni. Ciao a tutti, ciao. Parlo, mica male. Clamoroso. Senti, ma poi la storia è, insomma, è piena di anche di trombati eccellenti, no? Pruzzo nell'82, da capocannoniere venne lasciato a casa, Beccalossi, ti ricordi tutto il casino che si fece intorno a Beccalossi, quindi è anche giusto così, cioè è giusto, anzi forse meno male che c'è Chiellini con la storia del codice etico, sennò c'erano anche troppo poche polemiche intorno a queste convocazioni, troppo scontate, troppo scritte, troppo precise, quindi benvenga Chiellini, benvenga il caso del signor Chiellini. Davide da Milano, buongiorno. Buongiorno, io volevo sapere la differenza. Chiellini alla fine ha commesso una sciocchezza all'ultima giornata, la penultima giornata di campionato, conducendo comunque un campionato di buona condotta. Chiellini comunque è stato ottimo per quanto riguarda la disciplina e ha fatto questa stupidata, ma che differenza c'è con uno che ha fatto la stessa cosa sei mesi prima o tre mesi prima, magari molto più grave, tipo Destro? Ma guardi, non ci deve convincere, noi siamo per Chiellini nazionale, credo insomma che Carlo sia d'accordo, ha perfettamente ragione, e tutto nasce solo da delle cose che ha detto Prandelli, cioè non è che io sono d'accordissimo con lei, ne parlavamo anche ieri, insomma quel tipo di comportamento, alcune volte anche provocatorio, alcune volte anche borderline, parte del kit tecnico caratteriale di Chiellini, addirittura in certi casi viene da dire può diventare, anche se la gestisce bene questa irruenza, può diventare anche una qualità, perché insomma il difensore ci sta anche nello sporco di una partita che possa provocare, che possa chiaramente non dare gomitate in giro, ma insomma che possa avere un certo tipo di atteggiamento anche intimidatorio nei confronti degli avversari. Insomma, l'altro giorno insomma vedevo Samuel al sesto minuto della partita contro la Lazio, è entrato su close pesantemente, insomma, cioè è pieno di grandi, e sto dicendo appunto un grandissimo giocatore della storia del calcio, quindi fa parte della vita dei giocatori, insomma, da Gentile nell'82 in avanti, quindi non c'è proprio niente di male in questo. L'unica cosa che non torna è che questa cosa non è che gli abbiamo chiesto a Prandelli, cioè non è che c'è stata un'interrogazione parlamentare, Prandelli ti prego fai il codice etico, questa è una sua iniziativa che ha portato avanti, che ha difeso e che pochi giorni fa, a metà aprile, ancora una volta ha ribadito con un virgolettato che era: da adesso in poi cadere in queste situazioni non lo voglio perché non è in grado di sopportare la tensione. Il padre di tutti gli errori è stato quello. Siamo d'accordo sul fatto che il padre di tutti gli errori è stato quello. Ma non scherziamo, No, non ce lo facciamo come la moglie, no? Ma chiaro. La moglie che è presente, sì. Presente. No, senti, io ti invito in un posto perché c'è un ascoltatore che manda questo messaggio. Offro la Villa Rotonda di Palladio, villa del 1565, per diretta di tutti i convocati. Nicolò, il proprietario. Benissimo, ok, organizziamo domani ci troviamo verso le 10 e partiamo? Sì, io sono a Torino. Sei a Torino? Mi passi a prendere a Milano e... Beh, chiaro. Beh, andiamo lì. Nicolò, arriviamo, ormai l'hai scritto, scriptamanent, l'SMS ce l'ho lì. Invece poi ti dico invece dove andranno i portoghesi in ritiro ai mondiali con i cuscini aromatizzati. Meraviglioso, saltano fuori delle storie con i mondiali che te le puoi neanche immaginare, anzi te li immagini benissimo. Vabbè, che voi umani non vi potete immaginare. Facciamo così. Andrea da Ascoli Piceno, buongiorno. Avrebbe mica due biglietti per la finale di Europa League? Guarda Carlo, incredibile sta cosa. Cioè? Io non l'ho sponsorizzata, nel senso che io l'ho inviata a due tre amici su WhatsApp, ma per fare uno scherzo, io sono anti-juventino dalla nascita, no? Però è stata una cosa così, all'improvviso ho visto che su YouTube 15.000 visualizzazioni, oggi mi sono sconvolto a sentirla in diretta. Comunque, t'abbiamo pescato, non, Ascolta, io non chiedo niente, però avrei il diritto a una maglietta, anche perché sono stato l'autore della canzone di agenti.it, ti ricordi qualche mese fa, che era giusto due o tre giorni prima che partiva il concorso della maglietta. Secondo me la merito, dalle due la merito. Pardo, la merito, no? Cioè, come possiamo opporci? Certo, un precedente, adesso la gente che merita la maglietta gliela mandiamo, è un precedente... non lo so, dobbiamo... Allora, facciamo così. Dai, Pardo, pensaci tu. Cantaci la canzone e poi ti mandiamo la maglietta. Per arbitri assistenti è garantito Juventus.it, il meglio sito. Per le partite di campionato ti garantisci il risultato. Per tutti i gol inesistenti gli aiutini saranno evidenti. Scusa se è poco. Dai, oh, che me la merito. Se la merito, dai, lo dico io. Stavolta decido io. La merita per la creatività, ecco, poi non entriamo nel merito, sennò poi ci dico. Lo so, questo è evidente. Invitiamo gli amici bianconeri a comporre brani altrettanto ispirati a difesa della... Ma certamente. Della fidanzata d'Italia, come dice. Noi siamo imparziali come bravo, i giudici. Bravo. Ce ne va frega di meno. Romana del noi siamo spaziali. Beh, Andrea, comunque grazie. Sì, se la merita, dai, grande creatività, sì. Complimenti. Sei ascolano, conosci Destro? Conosci? Destro? Andrea, conosci Destro? Sì, lo conosco. Vabbè, spam il tuo concetto, perché se no la risposta è tipo un questionario. Dico, conosci Derby, dici due cose, andrà al mondiale? Ma io mi auguro di no, non se lo merita, se lo merita Insigne. Per me se lo merita Insigne. Insigne? E perché? Ma non lo so, perché secondo me tra Balotelli, tra Cassano, secondo me è più decisivo Insigne che Destro, secondo me, in questa, nella rosa degli attaccanti che abbiamo. Quindi per questioni esclusivamente tattiche, nonostante Insigne secondo me abbia fatto una stagione nel complesso non brillantissima, Pardo, sì, nonostante il campanilismo scolare. No, Insigne non ha fatto una grande stagione, sinceramente. Ha fatto 9 gol, se non sbaglio, adesso, di cui 3 solo in campionato. E ha fatto questa doppietta in finale di Coppa Italia, che ovviamente non è un dettaglio, perché no, certo, in quelle circostanze lì il pallone pesa di più. Insomma, io penso che tagliato sarà lui, questa è la mia idea, però vedremo. Insomma. Poi del resto, voglio dire, se fanno una settimana di test, è anche per... Cioè, qualche dubbio se lo vorranno togliere, no? Non è soltanto un modo per un premio a 31 giocatori invece che 23. Io penso che qualche risposta la darà pure l'intensità con la quale si allenerà a campo. Sicuro. Pier, stai lì. Allora, dopo, grazie Andrea. Grazie mille, Andrea D'Ascoli Piceno. Grazie. Intanto adesso ci fermiamo per la borsa e poi facciamo la nostra nazionale. Ognuno fa la sua, chiamo anche Piantanida. convocati. Tubali, quanto un palazzo di 12 piani a Monte Carlo e poi vivi in affitto a Torino nella casa di Chiellini. Ma è possibile? Eh? Sì, è vero. Ma com'è possibile? Com'è possibile che vivi in affitto nella casa intanto di uno juventino? E poi, con tutto quello che potresti permetterti, mi sembra veramente poco. Senti, a proposito, se tu dovessi malauguratamente passare alla Juventus, lo dico per me torinista, poi Chiellini che fa? Ti fa lo sconto? Te la dà gratis? C'è un codice etico negli affitti? Eh? Non lo so, penso che me la dà gratis, se saremmo compagni di squadra. Ma che compagni di squadra? Tu devi dire che non ci vuoi andare alla Juve. Il tuo agente però lo hanno visto già a Francoforte, a Monaco, a Dortmund, ha girato tutta la Germania. Piero, il mio agente c'ha i parenti in Germania, va a trovare i parenti. È un emigrato anche lui. Luigi! Sì, dica. Ah, sapevi che Immobile sta in affitto da Chiellini? Sì, lo sapevo. Però insomma, ieri mi andava bene, Piero, insomma siamo contenti, un buon Immobile. Tra l'altro Immobile che parla di immobili, faccio notare che tutto torna, tutto si consuma e tutto si combina. Dai, facciamo queste formazioni, tu sei pronto? Io sono pronto, ma Roberto non lo so perché scrive: complimenti per aver trasformato una trasmissione di cultura sportiva in cabaret. Ma fosse vero, il cabaret è la forma più alta di cui noi abitiamo, davanti al derby qui a Radio 24, di fronte allo storico derby, adesso non è più tale però. Ma si chiamano Immobile da Chiambretti, questa è la risposta che possiamo dare. Ciao Pier, sono Erzizzania. Come stai, Zizzania, piantanida? Sei pronto? Sì, sono carico con la mia formazione. Vai. Io metto subito Zizzania. Vado io, il primo? Sì. Allora, io metto Sirigu in porta perché Buffon lo vedo distratto. Lo vedo distratto e lascio sottintendere un sacco di cose. Poi Sirigu comunque, insomma, è affidabile. A sinistra Darmian, che nasce come terzino destro, ma in questo finale di stagione sta facendo bene, benissimo. È inutile che qua si ride, anche a sinistra. Infatti il Toro volerà in Europa anche grazie a lui. Poi metto Bonucci e Barzagli in mezzo, nel senso non era per sminuirli. De Sciglio a destra, Chiellini quindi lo facciamo riposare un attimo perché mi sembra sempre un pochino confuso, anzi insomma non solo per le ultime vicende, ma deve rimediare insomma la finale dell'Europeo, ginocchio sui ceci, insomma Chiellini, sì, perché insomma un po' così. De Rossi e Pirlo in mezzo, questo io spero sia il mondiale di Daniele De Rossi. E perché sì, insomma lo vedo carico dalla stagione con la Roma, poi deve rifarsi dal 2006, il 2010 è andato ancora peggio, nel 2006 ricordiamo la gomitata che gli fece saltare praticamente tutto il mondiale. Poi Balotelli. Chi sta parlando? Eccoci. Ciao Mario, sono Franco, anzi detto Erzizzania. E dietro Balotelli, Cerci a sinistra, Marchisio in cursore, Candreva a destra e 4-2-3-1. Vabbè. Questa era mia. La bizzarra formazione del signor Piantanina. Vabbè. Eccola qua. È Zizzania, sennò cioè. Pierluigi. Pier, tocca a te. Ma io giocherei 4-2-3-1. Buffon in porta, ripresa 4 con De Sciglio o Maggio, a seconda di chi sta meglio. Barzagli, Bonucci, Chiellini, perfino. Centrocampo Pirlo e De Rossi davanti alla difesa. E poi giocherei con Candreva e Cerci esterni, con una punta centrale, teoricamente Balotelli, e con un trequartista che può essere Cassano, può essere anche Verratti, finto trequartista, però giocherei così, giocherei con questo modulo qui. Però credo che invece giocherà 4-3-1-2 col finto trequartista, come nella storica visione prandelliana, soprattutto in nazionale, poi in emergenza tornerà anche a tre durante l'europeo, però insomma credo che tendenzialmente sia quella l'idea di partenza. Ma io sono d'accordo con te, sai, cambia poco la mia formazione rispetto a quella che hai detto tu, non si discute granché su chi va in porta, sulla linea difensiva De Sceglio, Bonucci, Barzagli e Chiellini, Pirlo, De Rossi, ma magari Romulo a centrocampo, cosa dici? Magari Romulo a centrocampo, Balotelli, Rossi, se sta in piedi a Cerci? Se lo fa? Se lo fa. Se lo fa. Se lo fa. Poi resta da vedere se Verratti va ai mondiali e secondo me non va. Pure secondo me non va, però esatto. Se Maggio va e secondo me non va. Chi? Maggio. Sì. Può essere che non vada. Sono male tanti mesi, però insomma secondo me come spinta non è male. Ma hai una ragione per la chiamata di Pasquale o serviva semplicemente uno da scartare senza troppi problemi? Perché Pasquale con la nazionale ha una storia strana. Sì, ha una storia strana, molto probabilmente verrà scartato. Io credo che questa sia una... Ma un po' secondo me, siccome lui ha dei dubbi sugli esterni, perché se tu ci pensi, insomma, Abate secondo me non lo convince del tutto. Maggio torna dall'infortunio, De Sciglio pure ha avuto una stagione abbastanza tormentata, secondo me. Abate non gioca neanche, è da tre mesi che non gioca poi. Esatto. Per cui poi insomma, queste due chiamate di Darmian e Pasquale, Pasquale, sono un po' dovute a un aspetto proprio numerico, e secondo me lui ha bisogno lì hai ancora le idee poco chiare, nel senso che deve fare delle scelte. E sì, ma è molto difficile che Pasquale possa rimanere tra i 23, su questo non ci sono particolari dubbi, ma insomma la scelta di fondo secondo me è capire il modulo, perché è chiaro che insomma Cerci e Candreva stanno molto bene, sono due esterni che potrebbero darci tanto volendo un po' aprire questa squadra, no? Cioè, volendola un po' aprire orizzontalmente. Balotelli abbiamo visto che non è una prima punta, o meglio può far tutto, però fa un po' fatica, almeno nel Milan fa tanta fatica a fare la prima punta da solo. Allora o giochi Balotelli immobile, che può essere un'idea, fai 4-3-1-2, anche col finto trequartista, nel senso che quel ruolo lì può giocarci Montolivo, può giocarci Marchisio, potrebbe giocarci anche Verratti, sì. E poi parti con Balotelli immobile o addirittura con Balotelli destro, sì. Oppure invece secondo me l'allarghi, fai, metti in campo Cerci che sta bene, metti in campo Candreva che sta bene, e fai il modulo col quale tutti ormai ma l'ipotesi invece 3-5-2 stile Conte? Beh, l'ipotesi 3-5-2 nasce solo da una grande positiva, e cioè il fatto che comunque con i suoi limiti che si sono visti a livello europeo, ma su quali si può discutere, e che comunque non sono stati tanto dei limiti difensivi quanto dei limiti di costruzione offensiva, però difesa della Juve è un po' come la coperta di Vinus l'anno scorso, quando improvvisamente ci fu quella brutta amichevole persa a Zurigo, improvvisamente a pochi giorni, l'anno scorso, due anni fa, Prandelli cambiò e provò la difesa a 3, che in quel momento era la soluzione più ovvia, perché quando tu hai tutti i giocatori abituati a giocare a 3 e a farlo molto bene col blocco Juve in campionato, avresti 6 titolari in questa squadra, in quest'Italia, che giocano con questo modulo da 3 anni, non è poco, eh? Poi per carità ci sono detto che ai mondiali comunque devi giocare per fare gol, quindi devi rischiare per forza, ma resta da capire il nodo cruciale in attacco è Giuseppe Rossi, cioè se te lo porti è perché ritieni che possa giocare, e se te lo porti perché può giocare, Giuseppe Rossi è titolare in questa squadra, perché Giuseppe Rossi come possa... Giuseppe Rossi e Balotelli come Tevez, Llorente potrebbe anche essere a livello tecnico, fisico. Infatti può essere, secondo me potrebbe essere questa l'idea di partenza, ammesso che Giuseppe Rossi stia bene. Senti, sai dove va il Portogallo, Pierluigi, ai mondiali? In ritiro. Campinas. Resort, sì. 116 stanze, cuscini aromatizzati, camomille e caramello in abbondanza, e per Ronaldo una suite con uno specchio riscaldato che evita di appannarsi, in modo che si possa pettinare anche dopo la doccia senza problemi. Allora, questo è un grande problema, Questo è un grande problema. Io tante volte esco poi in disordine. No, no, c'è un grande problema. Ma lo danno anche a te. Ma hanno detto che tu che suite hai? Cos'hai nella suite? Quali sono i tuoi comfort? Dicceli. No, no, è un albergo bellissimo, ma io però siccome siamo praticamente in campagna, a Venaria, ho commesso l'errore di aver aperto la finestra a un certo punto, aver tolto la zanzariera e qui sono entrate delle mosche. Ah, ma questo è l'albergo di stasera, il tuo albergo del Brasile invece non lo sai ancora? Ah, mio albergo del Brasile non lo so, so che a Mangaratiba, vicino al ritiro della nazionale, speriamo più che altro che le zanzare ci diano riparo, ci possono, ecco, ci risparmino, ci grassino, perché non sarebbe bello, ecco. Giovanni da Prato, buongiorno. Poi salutiamo salve. Pardo. Salve Giovanni. Salve, buongiorno. Dica. Senta, no, io volevo sapere, volevo dire solo una mia opinione sulla disciplinare per Chiellini in nazionale. Eventualmente sarebbe una gara per il mondiale, non il mondiale. No, lì si dice o lo porti o non lo porti, perché non è una gara, cioè, allora, se no ci sono le due amichevoli che ci giocheranno. Allora, torniamo ciao. All'over rule di Prandelli sul giudice sportivo e poi il successivo grado di giudizio San Pietro con le chiavi in mano. Chi vince Pardo stasera? Ma il Benfica è più forte nonostante le squalifiche, che è una maledizione, sì, no? Verrà rotta la maledizione. Per Gutman, io fa abbastanza ridere perché il Siviglia hanno vinto lo stesso numero di coppe europee, due, solo che il Siviglia ha vinto due finali su due e il Benfica ne ha perse 7 su 9 le ultime 7, quindi questa è un po' la situazione. Vedremo, io penso che sia favorito il Benfica, tecnicamente mi sembra superiore, ha più giocatori decisivi, ha un attacco comunque importante con Lima, con Rodrigo. Nonostante squalifiche? Sì, no, le squalifiche pesano, pesanti, tra l'altro abbastanza ridicole, perché Salvio è stato ammonito per un fallo di mano che non c'era al 96esimo, al 99esimo, non mi ricordo a che minuto lì del finale contro la Juve, e Markovic, Lazar Markovic è stato espulso praticamente dalla panchina, ricorderete la rissa con Vucinic nel finale del match di Torino, quindi insomma non è esattamente... quei due potevano essere utili. Stato respinto Guzman ce la potrebbe fare anche stasera. È stato respinto il ricorso per Markovic di questa mattina, giusto? Sì, sì, sì, sì. Guzman potrebbe farcela... No, vincono tutto. L'anno scorso il Benfica ha perso tutto all'ultimo minuto, campionato, Coppa e Europa League. Quest'anno vince E quest'anno vince tutto, fa quadruplete. Vediamo, domani ne parliamo, Tanto questa è registrata, domani ne parliamo, ci sono le prove. Ciao Pierluigi. Ciao ragazzi. Ciao, un abbraccio. Tutti convocati. Beh, io ho l'impressione che sarà da divertirsi parecchio da qui all'inizio dei mondiali, innanzitutto per quanto riguarda i tagli che Prandelli dovrà operare, perché ognuno ha le sue idee, e poi per la formazione, perché davvero un miliardo di messaggi e ognuno ha la sua. C'è chi vorrebbe De Rossi centrale difensivo per tutto il torneo. Poi non vedo perché dovremmo far giocare, se non in situazioni di emergenza come è già successo, un centrocampista del livello di Daniele De Rossi centrale difensivo. Questo non lo capisco, però anche questa può essere un'idea. C'è chi dice: ma Mattia Destro e Francesco Totti nelle vostre formazioni? No? Mattia Destro possiamo pure mettere, Francesco Totti però non l'ha messo Prandelli nella lista dei 30, dunque forza Roma, caro ascoltatore. E poi vale veramente tutto. Torno a ripetere, secondo me il punto starà nella verifica delle condizioni di alcuni che dovrebbero essere titolarissimi di questa squadra, uno su tutti Giuseppe Rossi, però insomma io ho le mie riserve, ho i miei dubbi e me li tengo, perché essere pronti dopo un infortunio di quel tipo, dopo aver giocato praticamente due spezzoni di partita, per un mondiale in cui vivi e muori, bruci tutto nello spazio di poche ore, può essere veramente un colossale rischio. Claudio Bologna, buongiorno. Buongiorno a tutti. Mi chiamo da Bologna, come ti dicevo, ahimè, tifoso di Bologna, e volevo fare alcune considerazioni per quanto riguarda, nessuno parla della maglia di Balotelli, sento parlare di della maglia. Sì, del ruolo di... Cioè, del ruolo di Balotelli, sì. Del ruolo di Balotelli, inteso come inamovibile nella nazionale. Sento parlare di Destro, di Immobile, di di tutte le punte che sono tutte in dubbio, lui non è mai in dubbio. E da qui mi collego anche a un'altra questione: non è che Prandelli abbia dovuto mettere anche questa questione del codice etico per le ballottellate? Io ci vedo un nesso, poi ascolto la vostra risposta. Ciao ragazzi. Ciao Claudio, no, non credo che abbia inventato il codice etico ad personam per tutelarsi nei confronti di Balotelli. Ma poi, torno a ripetere, ma che bisogno c'è di regole così rigide, di un codice etico per decidere di lasciare a casa un giocatore se non lo ritieni all'altezza della situazione, se ritieni che debba essere preso un provvedimento di carattere punitivo? Non vedo la ragione di impelagarsi in un discorso di questo tipo, il codice etico e il comportamento in campo, che poi io che contesto è che non dovrebbe rientrare nella fattispecie del codice etico il comportamento in campo, a meno di cose clamorose, se non da un cazzotto a un compagno di squadra, cose molto borderline di questo tipo, ma su contrasti di gioco come fa a dirlo? Cioè, siamo professionisti, andiamo ad un mondiale, si gioca al massimo livello possibile, ovviamente stiamo parlando di sport al massimo livello possibile. Oh, certo, certe cose andrebbero fatte, così come le scorrettezze in volata al Giro d'Italia o al Tour de France, vero Pier Augusto Stagi? Il codice etico non c'è. Non ho visto nessuna scorrettezza. Non hai visto nessuna scorrettezza? Tu mai in carriera, proprio non hai mai visto nessuna scorrettezza? Mai. Il ciclismo è uno sport di persone estremamente corrette, non abbiamo bisogno di codici etici. Come no? E di quant'altro. Ma come no? È come se un CT lasciasse a casa, che ne so, il re degli sprinter, che te è tornato a casa da solo, no? Mi pare, perché stava male. Sì, esatto, febbre, si dice febbre. È come se il CT dell'Inghilterra lasciasse a casa Cavendish perché all'ultima volata precedente ha piantato una gomitata nello stomaco a un altro. Più o meno, esatto. il discorso se questo. Senti, lo cosa trovo succede? Abbastanza ridicolo. Abbastanza ridicolo anch'io. Cosa succede oggi da quelle parti? Ma speriamo che succeda qualcosa, perché lunedì c'è stato il giorno di riposo, ieri pure sostanzialmente si sono solo un po' bagnati, ma di correre avevano assolutamente. Invece oggi sono costretti, perché perlomeno una tappa di 203 km, devo dire onor del vero, giornata sta tenendo. Nuvoloso, diciamo variabile, con un vento fortissimo contro e fastidioso. Quindi stanno per questa persona, non perché non hanno voglia di pedalare, ma veramente oggi la situazione è piuttosto complicata da questo. E poi c'è un finale interessante con uno strappo qui a Milano. È la prima arriva in salita, chiamiamola salita, parliamo proprio di un colle di una cosa di 5 km. Abbiamo problemi col telefono, Pier. Voi mi fate la prima... tra te e Pardo mi fa diventare matto questi telefoni. Io l'ho già detto a Pardo, lo dico anche a te, giuro per Natale ve ne regalo uno, non so quale perché non ci capisco niente di telefoni, ma uno che funzioni. Però capisco Giro d'Italia è anche questo, perché grotte, gallerie, montagne, è molto difficile avere collegamenti all'altezza. Sei ancora lì? Volevo solo salutarti, dimmi. Mi sgridi per il telefono, ma io sono fermo in sala stampa. Anche Pardo mi dice sempre così. Ma oh, sono fermo, piantato, non mi muovo su una gamba. Poi io, quando lo mando su cornicione di Mediaset, finalmente esiste. Non so che tu non ci credi, ma se ti passa un inviato dell'equipe Filippo Brunel e ti dice dove sono e in che posizione sono. Mi sembra di essere un ripetitore. Devi sapere che sono saltate le linee di una noto gestore di telefonia, e invece il mio sta funzionando, quindi sei già fortunato perché ho un altro gestore. Ma pensa un po', se avevo sfiga non ti trovavo più per tutta la durata del Giro d'Italia, ti ritrovavo a Milano nella tappa di oggi. Grazie Pier Augusto, alla prossima. Ciao, Carlo, dopo il giro del 18 ascoltatore che vince la maglietta, beh, oggi abbiamo già dichiarato, quindi è lui. Andrea da Ascoli Piceno, buongiorno. Avrebbe mica due biglietti per la finale di Europa League? Guarda Carlo, incredibile sta cosa.